Mari. Eccomi. Cata, ci deve essere molta propagazione. Io l'ho sentita in FM, cata. Arriva quasi 9:10. A me arriva forte qua. Cazzo, ma che so forte. In FM sono to. Aspetta a vedere. Francesi sono. Oh, francesi sono. Diglielo che lo compra prego lui. Non compri nemmo nulla, tanto non ribosso vide. Infatti, io dico, non compra fra, non compra fra. Noi mangiamo qua. Però se ne ridono di noi. E allora tu. Cosa hai combinato oggi? Mi sono appena rientrato, volevo portare un orologio a aggiustarmi e invece alla prossima settimana, che riaprono la prossima settimana. Sono i fili adesso, per Ferragosto tutti chiusi, da oggi chiudono, ma vabbè. Non ne hai altri? Sì, no, già ce l'ho, però quello che gli ho portato a aggiustare è un peccato lasciarlo fermo, è elegante. Ah, giù la trentina, Dio, sono lui. Prende signora, i casi più componenti, ridosi, quasi tutti i maleri. Poi intanto mi ne arriga uno. No, anch'io io ne ho parecchi, però... Uno vivo, anzi due vivo nella batteria, ma te si batteria, adesso posteggiato da una base, sino che non mi arrivi, me le ho ordinate, sino che non mi arrivano, non me le metto. E l'altro è vivo acquistato perché sicuramente ci vuole il condensatore nuovo. Magari è capace che un bel condensatore che ha comprato il nuovo. Ah, sono piccolini, piccolini, piccolini, avevo già, non quello, un altro, avevo aggiustato, mi ha pigliato, mi pare, 20 euro, baciamballo. C'ho 4 cipolle, l'anno scorso me l'hanno regalato un altro cipolle, ti puoi immaginare, e più quelli da polso ne ho, 7-8 ne ho. Uno me l'hanno regalato anche in febbraio l'anno scorso, ma questo quello è un cronometro, certo, quello è tutto laminato in oro, e ogni tanto ve lo metto, l'altro è un Zenith, l'altro è lo stesso, è buono, ma ne ho 4 e 5 che sono buoni, stanno sempre camminando, sono sempre camminenti. No, questo la batteria dura 3 mesi e poi si ferma, invece di durare un anno, dura 3 mesi, quindi è il condensatore che è partito. Aveva detto anche un altro orologiaio che è buono come orologio anche, di Mahaburu, quindi lo voglio aggiustare, farmelo lucidare, mettere le cinghiette nuove. È un signor orologio anche, a chi come ti ha fatto Trento, non ve ne so mettere visto. Tu dici che è buono l'orologio, vale la pena aggiustarla allora. Io se dovessi fermarci qualcuno non tocco più io. Io l'avevo preso 12 in un pacco che era in offerta 3 o 4 anni fa, mi sembra, una scatoletta piena di orologi, ce ne sono 12, che ha toccati più, sono fermi magari perché le batterie saranno esaurite, ma non li ho toccati più. E poi gli altri buttati così una parte o all'altra, e me ne tengo solo due davanti qua a me, dentro la scatola, quando esco me ne metto uno, un giorno me ne metto uno, un giorno me ne metto l'altro, sono tutti cronometri, se più c'ho 4 cipolle, quelli sono nuovi, stesso le cipolle, ma la cipolle non me ne metto io in tasca. No, manca a me piace, ma me ne hanno regalato uno, ve l'aggio sempre a una base, ce lo devi muovere perché è automatico anche, è compreso. piccolo, devo muovere sì. Questo qua, uno è automatico, l'altro con la batteria. Tizzini, quindi marca questo qua. Questo è automatico, invece l'altro ci vuole la batteria ogni tanto. Di quello che ci stavo portando ad aggiustare è un signor orologio e lo voglio mettere apposta, che se no non mi piace tenere il mio vermitivi elegante e tutto con mongoso roba quando esco in fessa. E allora riparcelo, se tu dici che poi che ti piace anche, allora te la giusce e va bene. E adesso fino a passato le pezze non aprono. No, tutta questa settimana mi ha detto che è chiuso, che l'ho trovato, mi ha detto che è chiuso, tutta questa settimana riapre lunedì prossimo, riapre, una settimana di ferie ha detto che ci fa. Io raramente, da un becchino lo faccio riparare l'orologio, sì, ma saranno 20 anni che lo faccio, le ho usaccati questi orologi, perché ogni tanto me ne dà uno mia figlia, capito, per cui quando la fossi a figlia te lo bocca la batti, esatto, c'era una scatola piena, capito, e per cui mi tengo questi due solo che ho, che sono l'ultimo che mi hanno dato, per cui gli altri, quando si ferma, non il tocco nemmeno, capito? Non mi va. Quello lì, c'erano le lire, c'erano quando l'ho comprato io, tanti anni fa, c'erano le lire che non l'avevo comprato, aveva pagato un bedugaro, un muro. L'orologiaio me l'ha aperto, me l'ha guardato e mi ha detto no, questo bisogna mandarlo fuori per aggiustarlo. Mi dice che ha fottito. Ah, ma invece lo prendo e me lo faccio aggiustare. Se lo aggiustano qua, allora va bene. No, ha detto che lo manda su in continente, lo manda e lo fa aggiustare lì, lo fa aggiustare proprio dalla casa sua. Io ne conosco uno che faceva l'orologiaio e il dottore penso che si vivi chi è. È un radioamatore, quello che abita vicino a Via Bellini, più davanti di me, a vicino al tabacchino. E quello è riparato l'orologio, però non so adesso se lo sta facendo oppure no. Prima faceva, era un professore di matematica, però faceva anche per hobby, capito? Aggiustava questi orologi, dice che è molto bravo. Sì. Ma bisogna vedere in elettronica se è bravo anche. Perché lì ci vuole il saldatore con la punta a fine deve essere saldato a fine fine. Beh, se questo facciamo questo lavoro, che è compare Carpino, di Passero, capito? Che abito ancora, c'era il mio radioamatore, è stato sempre orologiaio, capito? È stato sempre orologiaio, però lo faceva per hobby, perché insegnava lui, capito? Questo mi ha detto, dice che per fare quella cosa lì vuole mandato fuori, perché oltre a cambiargli il condensatore poi vuole messo a cosa vuole messo, ecco cos'è, non è solo il condensatore che vuole cambiare, lui lo manda alla fabbrica stesso. Perché qua magari non c'hanno gli strumenti, capita, e gente esperta proprio non ce ne sono qua, non ce ne sono, magari ci sarà qualcuno, ma ma se lo manda fuori me lo fa aggiustare come si deve, mettermelo a posto bene. Ha voluto rubare un bagaglio di 100 euro, non me ne ha fatto nulla, però è un signor orologio quello. Più gli ho detto di cambiarmi la cinghietta, di mettere se c'è originale stesso. Galimberti. Comunque, se è così, allora conviene aspettare, 100 euro, no, non penso che a mettere un condensatore 100 euro, non penso, non lo so. vede un po' quando aprono e vede un po' quanto ti prende. Va bene, buonasera Marco, avanti. Buonasera a tutti. Guarda, a Sassari io conoscevo Galimberti, che prima era in una traversa di Viale Italia ed era il padre, no? Quell'anziano. E forse lui si riparava proprio. Adesso c'è il figlio che si è trasferito in piazza Salvatore Ruiu. Piazza Salvatore Ruiu. So che io ci vado lì a cambiare solo le batterie, non so quanto sia in bravura per aggiustare orologi. Però io a Sassari solo quello conosco e conoscevo. Prima c'era il padre, penso che ormai sia morto perché era anziano, già tanti anni fa era anziano, adesso c'è il figlio. Ci sono già andato, buonasera Marco, ci sono già andato, mi ha detto che dice bisogna spedirlo fuori. Però siccome l'ho portato dopo, l'ho comprato io tanti anni fa, lo porto lì e me lo spedisce lui stesso, lo manda lui stesso in fabbrica a aggiustarlo. Ehi, che orologio è, Sole? È bello, è elegante, è bello, un Lancaster, ma è bello dentro, se lo vedi è un amore dentro. Ehi, beh, certe cose è meglio che le faccia la casa madre, perché c'hanno prima di tutto tutti i ricambi, anche l'esperienza, insomma, capito? E così è, alla fine qua ti cambiano solo le batterie. È come la storia mia, Tore, dell'operazione che ho fatto. No, che ti mettono i cerotti, capito? In neurochirurgia ti mettono i cerotti. Invece a Milano fanno, sono più specializzati, capito? Infatti, aspetta che c'è uno basso basso che ho capito chi è. Avanti, signor Bacchisio! Se scendi basso basso, gira gira, de dappa che su francese, de dappa, signor Bacchisio. Allora siete Gio Maria, signor Bacchisio, lo ascolti. Io l'ho sentito, ma il Pio Pio è. La propagazione mi sembra che se lo stai inghiottendo. Buonasera, signor Bacchisio. Capita, ma quali campagna si è, aiù. Hai sentito, tu? Lui conosce uno, non so se l'hai sentito. Quello di mia mamma, la stessa cosa, li ho già provati tutti, quelli lì che conosco, e mi ha detto di mandarlo fuori, alla fabbrica sua, che le aggiustano delle cose, cambiano i pizzi anche. Ma ne ha fatto Bacchi, ma ho già detto di mandarlo in fabbrica. Ma io sono fatto di degoso, io lo mando, lo do a lui e si arrangia lui e lo manda in fabbrica, lo manda e me lo riportano come nuovo, l'ho preso, poi non so cosa ci cambieranno, anda bene. E non lo so da chi, dipende da loro cosa devono cambiare, però dire lo faranno in fabbrica cosa cambiare o no. C'è un Rolex, c'è un Rolex. Gli scelgo ciambe. Io no, io se mi ha detto che me la aggiustano. Che lui ha detto che la manda in fabbrica, la manda. Vabbè, riprende Gio Maria. Papà, se vuoi te lo do io, to. Detto, ho visto la pubblicità alla televisione, ma non ricordo che marca sono, una cassettina ce n'è, 12 orologi sono, ci sono da donna e da uomo, adesso tutti i fermi, prima era il camminetto che sono arrivati, ma passa tutti i fermi già più di un anno, e ci guardano la batteria, cioè, poi ce ne ho uno, to. Oh, Marco riprendi. Ehi, guarda, Bacchigio mi arriva a tratti perché c'è la propagazione del freno che me lo copre. Oh, guarda, io non ho mai speso molto, io compro spesso i Casio, che sono giapponesi, sono di solito sono a pila, sia lancetta sia display cristalli liquidi. Quando si rompe, si butta e si cambia, i prezzi sono bassi. invece mamma addirittura si compra quelli cinesi a 3 euro che sono usa getta, non gli cambia manco la batteria perché costa più dell'orologio. Ma oggi gira come ma dopo si appiglia se le latte del corpo del giumacciolo. E tu sai che a mia figlia ogni tanto me ne porta uno, ma c'è una cacciaccia lì, io ho 3 di quelli buoni, e per cui ogni volta me ne cambio uno e quelli camminano che sono un bombo. Ah, che gli altri magari costano poco, però vanno bene, per cui ci sono quelli che camminano bene e quelli che camminano male. Comunque una volta ai tempi di nonno facevano orologi magari a molla, no? Magari anche modesti nel prezzo, ma che ti duravano una vita. Adesso, a meno che tu non spendi cifre considerevoli, gli orologi sono tutti mezzi elettronici, sono roba commerciale, capito, che no, hanno poco valore, a meno che non sali molto di prezzo e prendi roba pregiata. Vabbè, io vi lascio che sto facendo a pranzo, non ho mangiato né frutta né nel dolce, lo sto mangiando adesso, dai, ci sentiamo, che oggi non mi sento tanto bene, no. Sono uscito stamattina a Piazza Le Segni, sono entrato anche da MD, però il caldo devo dire che mi ha sconciato. Ok, e come sempre da MD può avere un freddo, mamma mia. Dai, vi saluto, ciao Tore, ciao Battisio, ciao Gio Maria, dai. Ci sentiamo in migliori occasioni. Ok, ciao Marco, ci sentiamo alle prossime, ok. Ti prendi Gio Maria. Ok, ciao, ma sentiamo. Potessi fischiare, c'ero anch'io stamattina da fare segni, cazzo. Almeno qualche cosa di fresco ci avevamo preso, sarà per la prossima. Ciao Marco, ci sentiamo, saluta mamma. Ok. Buon Ferragosto eventualmente. Fai Bacchi. Ah, c'eri anche tu. D'accordo Bacchi, va bene, sentiamo dopo. Ho detto anche tu c'eri, Gio Maria. Ero io e Tore, tutti e due eravamo sempre, finché non è entrato Bacchi. Guarda, magari mi hai visto pure, guarda, io sono alto, con la zone, dopo, con la pancetta, cosa vuoi di più? Ma, raga, non sai più cosa mangiare, boh, non lo so. Ho mangiato 5-6 fichi oggi, dopo pranzo, ma boh, a mal di pancia mi ha fatto. Aspetta, se ho fatto imprese, ma il male mi ha fatto, e questa volta ho fatto male. Vuol dire che eri indisposto, scusa, sono i fichi, ma vuol dire che eri indisposto. Sarà. Allora, ma ha chiuso mi sembra. Sì, sta mettendo la macchina in garage e stava chiudendo. Allora ci sentiamo fra poco, va. Mi sono uscito a Piazza Le Segni stamattina, abbiamo fatto un bel giretto, dopo sono entrato lì alla Torre, quel negozio della Torre, Lidl come cavolo si chiama, e mi ho preso l'acqua e così via. Ed eccoci qua. No, me l'ho fatta la passeggiata e c'era molto caldo anche stamattina, però già siamo saliti presto e non siamo saliti molto tardi. Però ce ne mancano parecchio e evidentemente sono più i fili e parecchio, che già ce ne erano bancarelle, però ce ne mancavano parecchi. Molta gente ha chiuso, io sono andato al centro, sono andato e molti negozi sono chiusi. Però molta gente è a vista. Poi sono entrata lì all'isola, avevo forse trovato quella bolletta batteria e non c'era. C'era la bolletta doppia lama, quella è un bel attrezzo, però stavo cercando la bolletta batteria, capito, che è molto utile. Invece di quelle no, non ce n'è. stavo cercando anch'io la settimana scorsa, mi ha detto, dice, dovrebbe uscire la prossima settimana, mi ha detto. Quelle a batteria sono comode, poi sono della Parchisire, sono buonissime, capito? Io c'ho un sacchetto di... ho preso il sacchetto il mese scorso, ti dico che a elettrico però, eh? Allora sa come taglia, catta, è un bambò, c'ho il black and deck, però è ben avvicino, catta, questo è favoloso, catta, che taglia i rami grossi, non ho un'idea, catta. Aspetta, quell'altro di Bracchevecchio, oh, tocca ai pini come te lo racchino, guarda, fa tagliare, mentre invece visto per bisogno, cammina che è un bombo, e l'ho pagato poco, mi sembra 65 euro, e c'è un attrezzo in campagna che è favoloso, anche per portare, eccetera. Se no, ma molte volte costano poco, ma quello lo stavo cercando anch'io, mi ha detto, dice, la prossima settimana forse lo metto, ha detto. La boletta a batteria? La prossima settimana forse lo metto, non torna. Tanto che fa prima, vedi, eventualmente mi avviso, in caso mi avviso a te, io se li vedo prima, perché quella mi interessa, capito? Io ti avviso, se ci vado prima io, già ti avviso. Ok, ma certe volte magari io di solito vado sempre lì a tali segni, no, io lì alla torcia volevo dire che... ma bisogna anche guardare pure se chi sia qua di fronte alla centrale latte anche, capito? Molte volte in un posto c'è, l'altro posto non c'è, capito? No, Gio Mari, lì qua al centrale del latte lì sono andato io, non c'è né lì. E mi ha detto, dice, la prossima, c'è la pubblicità, allora arriva da loro. Ci sono belle attrici per casa, ma sono molto comodi. Però io ho giubilato roba, gatta. Ha giubilato pure due tagliatrici, pure quella anche di quella di 45 gradi, anche quella c'ho. Due ne ho preso, una con la piastra e l'altra quello che fa, che gira, che fa in 45 gradi. Ma tutte e due si fanno 45 gradi, però una c'ha la piastra, capito? Per tagliare in mezzo, capito? Io ho preso di quelle marche lì, ho preso il sadatore, ho preso il trapano a batteria, ma ho preso le punte all'ilo, una confezione di punte, e un sacco di roba io ho preso alla Lilo. Bella roba c'è, interessante, io ho preso anche la mola normale con due ruote, ho preso l'altra mola con un pezzo di nastro, capito, che lisica, e poi ho preso una bobina, una prolunga che è a bobina, questi che sono 25 metri. Dopo cosa ho preso? Ho preso quel segreto lì che ti ho detto, ti dico, poi cos'altro ho preso? Una bella attrezzatura per portare, capito? Un bel di cosa giubilato dalla Parchisido, tutta roba dalla Parchisido. Vuole così che... No, io ho preso un sacco di cose, infatti se appena c'è la pubblicità ci vado lì il giorno stesso. Sai cosa ho visto? Che ci sono le saldatrici belle, costano anche poco, però io ce l'ho, oltre cosa me ne faccio. Però ci sono due tipi, una bella a filo continuo, gatto, è bellissima, quella è leggera, la puoi mettere a tracolla e costa 65 euro, gatto, ma è bella, leggera, è molto comoda, la puoi portare dove vuoi quella lì, cioè puoi mettere a tracolla, capito? Però ce l'ho la saldatrice, io non l'ho presa, se no me l'avrei presa, Io no, non l'ho presa perché tanto non si usa già, non ci sono un buono a saldare io. Anche io buono sono, uno impara, no? I ballerini si impara, capito? Cioè che... certe cose me le faccio io, capito? Non è che vado a portargli a farmi saldare, c'è una cosa molto importante che bisogna fare un lavoro ben fatto, chiaro che non le faccio io, però certe cose me le faccio io, capito? Quello sì, vabbè, per quello sì che si può. Vediamo a vedere se è rientrato Bacchisio, attenzione Bacchisio. Certo, noi passiamo un filo orario a stasera. È caldo, sta facendo sto sceso un po' che magazzino che stavo messo, ho fatto un pezzo di, sono andato alla Bricome l'altro giorno, ho preso quelle secchi in alluminio che è da 2,5 largo e mi sono fatto una specie di verga e ho attaccato quella all'antenino per il PMR, capito? Ti sei fatto l'antenna? Infatti, certo, l'ho piegato sulla punta, ho messo un piede femmina, ho saldato il pezzo e ho visto che sta pulsando, 1,2 di stazionario c'ho, 1,2. Lo stai adoperando dentro casa fuori? No, dentro casa pure non le mettono, dentro casa. Ne ho fatto due, una c'ha uno di stazionaria e invece questa ne ha 1,2, però la devo regolare, capito? Perché più lunga, se ho seduto qua dritto se non ci arrivo, allora mi devo prendere la sedia e me la regolo. Domani, se ne ho senso, se ne ho voglia, attacco il rosso mentre me la regola. Devo avere zero stazionario come prima. Ma ce la fa uscire direttamente? Adesso te lo faccio sentire. Attenzione signor Bacchisio! Attenzione signor Bacchisio! Attenzione signor Bacchisio! Da finivo il capo di macchina 30 gradi, ma qui c'è la macchina di un signore, ragazzi! Ah, ce ne vuole, deve arrivare a casa a piedi, buro! Ma lì ci ho sempre di manofatti, a camminare di più, da Maria. Manofatti no. E allora, a chi si abbina piano piano, con calma bisogna arrivare. Carichi. Vuol dire si affruscia bene. Che ci va a essere ciucu ciucu, Ah, boh. Allora, messie, col te plau, oui, c'è un bacchisetto, ci sei? Ha detto che no, Gian Maria, ancora no. Per carità, ragazzi. E io vado, arrivo a casa, si deve fare la doccia, asciugarsi bene, pulisci i pantofoli, a sentire parecchio, a fare i casi prima di fare da, e sono già lotto. Vabbè, dalle un tempo. Capito che ho macchiato, ragazzi. Lui fa tutto piano piano, le cose ben fatte. Va bene, va. E domani alle Gandarini, mi raccomando, sto. Sto pezzettini uno, Se non è fusa la di. Mi pare che faceva, così. Se non è fusa. Cattere. Come te che canno, si biarra una bocca, gatta, a parete un corso perché si barreva, gatta. Ma Eva, sei grande, ragazzi, non dico niente, ma tutta beffa si sono fatti, gatta, mi dicetto fuggente, gatta. Come te 2 anni fa che ho fatto una poazzone. Allora, gatta. Va pure vivo, però non è giusto che a mezz'occhio proprio fosse a Eva, gatto, non va bene, già di vira Salvatore, così non andremo d'accordo, Oh, però sicuro che passa lontano, mio, che non fa arrivi. Da senza fare la ricadarina, lo manco, no? infatti. Sì, no, come ti fate, che dono mai a vendica. Ah, io gli ho fatto di che da maniera. Un primo mi andando, che lungo a mangiare. Ah, poi ci fai che fende e mi andando a casa. Tu stai in mezzo a leva. Niente. No, io me li guardo alla, alla televisione, buono, so come danni non fanno, Beh, alla cabaccata li cadevini, no? È una strapazzata enorme, sto. Ma poi dici, si fa in casa, c'è tutta la sera, a occhio a sole, ma poi dici, che da voi si tracchi malettamente, vabbè, sì, uno è giovane, vabbè. Ma noi, io metto femmino per la femmino, lo fai se lo fandemo, capito? Mi sarebbe piaciuto, però, mi tracco troppo e per cui se non mi muoio se mi tocco male. Beh, io sono di Genova, del giornale, Ferragosto al coperto. Ai te. Che hai fatto il telegiornale, no? Senta, ma quelli da papele, i candarini. Infatti, tanto sono rifatto a nuovo, mi. Me ne so tre o quattro che sono rifatto a nuovo, che sanno. Ma così spigliano un po' godeva. Sai che accoglio a bancare che i detenuti hanno fatto i candelieri, hanno fatto vedere a Rai 3, guarda, la settimana scorsa, che loro hanno fatto i candelieri, è bellino, Sì, l'hanno fatto, l'ho visto anch'io, ha fatto bello, altre aziende per l'acqua mia. Ma un bel infatti? Se che appoggiueva, che arrivendi, che appoggiueva. Ma la sassa che non si basta, dai, a chi si bisogna ricadere e si basta lontano, dai. Oh, perlomeno, Salvatore ha detto così, da voi, forse non si rivolge bombe. Infatti è sempre basta da lontano, dai noghi, non ha mai fatto un gutteggio. Proprio domani devi fare. Che ci vedi che io? La di mezza osso, grazie, vabbè. Ma domani farà le candarini senza sei fusi, che sa che sono cagini e poi li scicheggiano da voi mi farete un corso. Infatti, ma farci pure che passi lontano da noi, come ti ha fatto sempre. Quindi, ma farci pure che non ne voti a noi. Speriamo. Beh, dopo, da voi possiamo interviare il Biazzi. Attento, signor Macchisetto, ha detto alle aree. Quest'anno tutti a tirare le uova al sindaco. Infatti, l'uomo del dottorino. Ma hai letto sul giornale, dice, quest'anno sarà una... per quanto riguarda il sindaco sicuramente, una discesa dei candelieri blindata. Cioè lui è tutto contornato da polizia, carabinieri, vigili urbani, forse perché ha paura di buscare, se no me. Oh Marco, ma dimmi una cosa, ma che colpa ne ha il sindaco? Ci sono gli altri che non glielo dicono, che non lo vogliono fare le cose, che lui non può firmare se quelli dicono no. Lui non è a colpa, è tutto che lui insista e per cui non può fare niente anche lui, che se la pila oggi al sindaco. Boh, non lo so io. Ehi, già le controfirma lui le cose, se no non sarebbe il sindaco. Bisogna fargli pagare la pista ciclabile, come ha rovinato tutta via l'Italia. Ah, certo, lo so io. Ma è tutti i posti. Sono quasi tutti i posti. Certo, no, a peggio che le strade sono strette, ha fatto questa pista e poi un martello. Ah, che non si può parcheggiare, non si può parcheggiare in nessun posto in via l'Italia. Scusate l'apparizione, dai. Sto di nuovo andando via, forse è entrato qualcuno, mi pare. Beh, è sembrato di sentire Giulio, no, l'ho sbagliato io. Vediamo, la porta è aperta, se vuole entrare qualcuno. Ah, vai pure tranquillo, ascoltiamo noi. Forse ho sbagliato io. Vabbè, dai, fui avvietato di sparare a Capodanno, quando per me era una tradizione. C'era 40 anni che spara a Capodanno. Arriva lui, perché i cani si spaventano, i gatti si spaventano, le persone no, ai cani pensa. Vabbè, quello è implicito, dai. Va bene, dai, non voglio fare polemiche, dai. Però la pista ciclabile già se la poteva risparmiare, in Via d'Italia è un macello, non ci si può più fermare, ma non trovi parcheggio nemmeno nelle vie laterali, il problema è quello. Dai, ci sentiamo domani, dopodomani, quando capita. Ciao a tutti, ciao, vai Tore. Ok, ciao Marco. Gio Maria, ormai il sindaco, se piove sta tranquillo che già noi siamo manco vedo. Io vi so sicuro la baracqua, vedi da poco che ha preso cazzo, vi so tutti le cucciucce appresso, capito? Vedi da poco gente lecchina cazzo, per carità, e da voi per che cosa? Ha invitato il presidente della Repubblica per Gandarelli. Addirittura, ahi mi ne vedi, Mattarella, così si chiama, Mattarella. È troppo serio quello, hai visto? Quello è troppo serio, un presidente troppo serio. Lo so, ma io non ho invitato, Mattarella ha detto sto troppo bene qua la Maddalena. Io ti avevo sentito Bacchisio, attenzione signor Bacchisio, da. Ho detto quello si sta rinfrescando, forse ce la fa asciugarsi verso meno 5 così a quell'ora, chissà, lasciamo fare cose piano piano, per cui ha detto, dice che le cose le fa sempre bene piano piano. vabbè. Domani te lo dico. Lascia fare, come se abbia risposto io che mi ha ammazzato e mi farà in campagna. Allora, che si lamentava, gatto, che domani mi sono i calderini, questi che mi ha cucito più bene, questi che tocca mollare tutto fino alla prossima settimana. Vabbè, non ne muore nessuno, è cosa che può aspettare. Prima sono le feste. Che le feste ci sono a mangiare, ci sono travagli, uia! Davvero matteci. È così, prima bisogna lavorare. Se uno lavora dopo le feste possono finire, perché c'è qualche soldino in tasca, allora già l'altro discorso. Ma se uno non lavora, soldino ce ne sono, e per cui si deve aggiustare. Sì, Gio Maria, andare. Che ce ne ha, mangia, che non ce ne ha, salti, tricchi. Un pochino ha problema, Graziano. Dice che andate a casa in Inghilterra, va. Dalla zia, o dalla cugina che sia. È tranquillo, mangia e beve, a scrocco, è tranquillo. Tutto gratis, viaggio gratis, dice che c'ha. Ma finirà, a me figlio mi ha detto che offendeva, è già un paio di dì, offendeva. E dove? A Londra. Offendeva. Vabbè, la gente da fare la baracqua. Si è rinfrescato anche. Lo credo bene, vabbè. Ci sono le posti dove fanno a, dove piove, ci sono le posti dove nevica, ci sono le posti dove fa bel tempo, ragazzi. È come qua, l'hai visto sulle Alpi, è tugnati la pelle troneve, di Lufiedi, e io che siamo morendo della sedi. Ma io sono si può via, nessun luogo si può via, come te posso. Per carità, cazzo. E io mi 20.000 no, e 20.000 ho tanti scirocchi che vi so cazzo, curicasi sotto la rocca, cazzo, quando mai ci hanno fatto la casa, cazzo, sotto la rocca, cazzo, si frana i chibi, cazzo, o si cacca, che pezzo, quasi la fine come te lo coso, come te l'ha frittata, cazzo. Boh, non lo so, ma figli, sotto la rotta si era fatta la casa. Un bel di casa vi so, sotto brocchi la rocca e gli si montate, cazzo, non so come ti fate a vivi, chi cazzo mai non pensare che oggi domani mi faranno a tutto, cazzo, o ci dice a qualche pezzo, cazzo, e non li vedi più, gente, cazzo. Ma tu lo vedi mai a 20.000, no? Se tu vedi che si rocco mi farà toccare, oh, cimi, che si montagne, per carità, cazzo, come fanno a vivere lì, cazzo, boh. Ah, in via il surugo. Ah? In via il surugo. 20.000 è l'Italia, hai il confine. Il confine con la Francia, il confine con la Francia e con la Spagna. Ma è la cugina o la zia da Carelli? La cugina che c'è era un familiare di Graziano. Ah, così è, ma no, abbiamo compreso. Non è che viene chi vi muore di freddo, Edo, a chi vi sempre prendeva. Cazzo, A 10 ma due saluti a Gio Maria Torre. Ma come siete, se chi si gira a tutti? Ah, quindi non è che non vi può andare in condizioni che non vi può mancare andare. Ah, me mi ha detto che andava ai vivi, ma non gioco. Può darci che ci è andato a Plattamora. Ah, finirà. Posso fumare come ti è, con che sono cose d'ossigeno. Ed è tutto, non riesci mai a camminare e andare pure, anda. Direi da figli a te rispondi, ti ripeto. Ah, io la giudico ultimamente e noi come ti è disendietro. Ma poi noi la prendiamo per buono, poi, se non è da giubbaedo. Attento, signor Bacchisio, non ti rispondono. Ah, ma è bello, non sei ancora rientrato. A me mi pare che era bacente la campagna, tu mi bari, ce l'ho capito male. Ah, se ce l'ha avuto con qualcuno, quando si appoggia una macchina. Ho avuto la serranda occupata ai chivi, magari è buccio qualche macchina, non può aprire la serranda per parcheggiare la macchina. No, già, in generale trova quasi sempre libero, trova. Ma che sa, e allora ho avuto qualche intoppo, allora ho avuto qualche intoppo, signor Bacchisio, e non finisce qua, Che andiamo bene, andiamo. Marco, mangiato, è finito, il dolce mangiato, Sì, sono qua. E sono preso un bitter anche da bere, bello fresco. Sì, magari la voglia di mangiare c'era, però era un po'... non so, il caldo mi ha sconciato. Sono uscito con le migliori intenzioni e sono tornato un po'... Poi sai, ho dovuto portare a casa tutta la spesa, i cartoni dell'acqua, mi fa sudare me. Vabbè, e pensa, io ho aspettato 9 mesi, avevo aspettato 9 mesi per quest'estate, ho detto voglio stare tutta l'estate al mare. Poi vabbè, è successa questa cosa dall'operazione, però adesso che sto, che mi sono dimesso, io di andare al mare non ho voglia, proprio zero totale, non ho voglia, c'è troppo caldo ancora. Ma io mi ricordo che gli altri anni andava a Maestrale, no? 3 giorni in Maestrale, poi un giorno o due di tregua, poi di nuovo Maestrale. Quest'anno ci sono 30-31 gradi fissi, ma già da un mese e mezzo mai vista una cosa del genere qui da noi, perché noi siamo molto esposti al Maestrale, capito? Quest'anno nulla. Ma io fresco non ho visto ancora una giornata, tutto caldo, qua mi segna a 31 gradi, dentro casa già è tutto aperto, 31 gradi c'ho io a casa, quanto c'hai tu? Ah boh, non lo so, ci avrò 38-39 gradi. Oh, qua sono 28, 28, c'ho le finestre aperte. Tu sei più in alto di me, così che forse per quello c'è più aria, ma 31 gradi c'ho io qua. Sì, e poco fa ho aperto tutto, adesso è entrata appena l'arietta. Comunque sono bei, i 31 gradi dentro casa sono tantissimi. Sì, siamo sempre in mezzo a questa bolla di caldo africana che non passa, mai vista una cosa del genere. Proprio... vabbè, comunque davvero di andare al mare, non a Giugana, non ho voglia. Mi è passata la fantasia del mare. Allora fai come faccio io. Mi butto, riempio la vasca da bagno, mi ci butto dentro, e so, mezz'ora dentro, gioccandomi. E vedrai che ti rinfreschi bene. Il mare io da lontano lo vedo, Io il mare lo vedo da molti anni, per cui non ci vado a mare. Non ci vado, non mi interessa il mare. A me quando mi hanno spacciato la cabina, a sesso pettine, io senza entrare in acqua so dall'anno. Ti puoi immaginare quanti anni sono, E non ci vado assolutamente. Passo vicino, però no. Se è possibile non lo guardo nemmeno. Ehia, ma io di solito andavo, tutti questi anni andavo al mare, certo dall'anno scorso un po' abbiamo perso il ritmo, dall'anno scorso un po' due anni fa, ma quest'anno zero, nemmeno una volta, vai Flore. Ah, io sono sceso un po' di volte, mi sono fatto anche il bagno, ma con il caldo che mi ha drugato un poco, mi ha abbronzato, quindi già sono sceso io un po' di volte. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando. Chi è che sta chiamando? Sì, che ti ascoltiamo, Alex, dal sud Italia stai chiamando, ok, una radio perfetta, ma già ti ascoltiamo. Sì, che ti ascoltiamo, e a voglia se ti ascoltiamo. Stai arrivando radio 5, segnale 8, pensa un poco. Chiamare tu all'ascolti. Arriva benissimo. 5 radio e 7 di segnale per me, va benissimo. E a te Marco, come ti arriva? È oscillante, oscillante. Vabbè che io c'ho solo 4 watt, non mi ascolterà nemmeno. Alex, lo vedi? E anch'io sono con 4 watt, oh. Sono 4 watt anch'io. Beh, infatti se c'è la propensione buona, cioè anche con 3 watt arrivi. La Sardegna ti saluta, Salvatore da Sassari. Vai Gianmarì. Attento Ale, dimmi se mi ascolti, cambio. Sì, non ha sentito. Attento Ale, se mi senti, dai Roger, cambio. Ah, mi senti, io ho capito perché. Perché parla troppo, troppo in fretta, molla la portata. Attenzione Alex, se ci ascolti, dalla Sardegna a Sassari. Dalla Sardegna, arrivi fortissimo Sardegna, qui nord Italia. Quindi già siamo vicino, siamo a due passi. Attenzione, va tutto a parte, tutto ok, Sardegna dove? Città di Sassari. Non l'ascolto più, ho sentito che era coso, e poi si è abbassato io tutto. Ciao Mari, domani acqua mi. C'ho la paracqua sempre pronta io. Speriamo che piova davvero, che porti fresco però. Certo, almeno lasci scendere i candelieri, dopo può fare quello che vuole, cazzo. Dai 20 ai 27 gradi, 20 di notte e 27 di gradi di giorno. Speriamo. Anche lì fa caldo, come qua, e noi siamo qua a 38 gradi. Un po' di caldo, lo volete? Ah no, ci basta quello che abbiamo. Dile che l'abbiamo anche da vendere caldo, se ne vuole la Puglia. Già li facciamo un bel prezzo. Grazie altrettanto Ale, mi raccomando, mangiate poco e buon divertimento, buon Ferragosto a te e famiglia, ciao! Già pensiamo a te, Alex, pensiamo a te. Starci bene, ok, ciao. Ciao, Marco, 4 watt, sono 4 watt staccando. Adesso dimmi tu, se la propagazione è buona, vai. Però ricordati che io ho tutta Prunicella che mi copre l'Italia. Non lo so, e poi il segnale è troppo incostante, passa da 0 a 9, da 0 a 8, da 0 a 7, capito? Va, sale e scende, lui fa tra, molto QSB, e poi altro che buon Ferragosto, tu immagina la bolgia che ci sarà a Ferragosto, sempre che non piova, davvero. Poi ritorno, un bel traffico, mamma mia, io preferisco starmene a casa, se c'ho caldo mi faccio la doccia oppure il bagno. Ah, che non c'è, io sono un mezz'anni che non vado a vederti, capito? E come fai a stare tutta la sera lì, specialmente se fa caldo, gatto, tutta la sera fino a mezzanotte, l'una di notte, gatto? Ma ti ammazza, capito? Non è possibile, non è possibile. Poi l'abbiamo vista troppo noi, per cui magari essendo magari più giovane, magari se hai fatto altro sacrificio sarei adatto. Ma come fai? Me la guarda la televisione e va bene ugualmente, ma... No, ma io mi riferivo al Ferragosto, al mare, in Pinetta, ci sarà una bolgia di gente. E poi anche il ritorno, il traffico di macchine che ci sarà da fuori verso Sassari. Pensi, a me mi pare che ci troviamo domani e Ferragosto bagnato. Eia, vabbè, tanto l'estate me la son giocata, dai. Va bene. Oh, poi io non ero tipo di troppo di andare in Pinetta, strafogarci di roba, bere. Aspetta la gente cotta che molteranno, che rientra a Sassari, esitta. C'è la stradale che li aspetta con le chilometro. Infatti. Allora sono tipo io che già no, già sono tranquillo io. Andare dai, io mi stanno chiamando e vi saluto, ci sentiamo domani magari se coincide. Andare. Ok, ciao a tutti. Ciao Gio Maria e Zebacchigio, non è entrato, arrivederci. Andare, ciao Marco, stammi bene. Eia, ma intanto sono le 8, o le 8 in punto, dai. È l'ora del telegiornale, anch'io ho questo rovato, dai. Ciao Tore, ciao Gio Maria. Sentiamo le prossime, dai. Comunque sia buon Ferragosto, che sia che lo passiate a casa, sia che lo passiate fuori, buon Ferragosto. Grazie, altrettanto, ho ricambiato tutto, Marco. A domani se coincide, dai, buon proseguimento. E ciao anche a Tore. Ma chi se non è rientrato, pazienza, vuol dire che ci vediamo domani. Ciao a tutti e chiudo anch'io. Buonasera a tutti.